L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale andiamo in Toscana. Non lo facciamo per parlare di quanto avvenuto nel corso della settimana, sono fatti gravissimi, inondazioni, alluvioni, ricordate senz'altro ci sono state vittime, i danni sono gravissimi soprattutto nella provincia di Grosseto, ma di questo abbiamo parlato già molto nei nostri giornali radio e nelle trasmissioni. Oggi andremo a scoprire, potremmo dire, una Toscana che fu, almeno nel settore agricolo. È una Toscana che fu, che però ha qualche buona chance di essere anche nel futuro. La regione, si sa, è molto nota nel mondo per la bellezza delle sue città, per alcuni prodotti enogastronomici di altissima qualità. Ebbene, a questi prodotti, già noti e conosciuti da tempo, si stanno aggiungendo ultimamente altri prodotti, frutto del lavoro di recupero e conservazione delle varietà rare o cadute in disuso, perché meno produttive o redditizie di altre. Varietà che in alcuni casi hanno portato fortuna però ai coltivatori custodi, così si chiamano, che le hanno reimmesse sul mercato. Prima le hanno messe in produzione e poi sul mercato. Chi sono questi coltivatori custodi? Ce lo spiega Rita Turchi, che è un funzionario della regione toscana, in questo colloquio che avemmo nel corso di Expo Rurale a Firenze. I coltivatori custodi sono degli agricoltori che si sono spontaneamente proposti di conservare varietà locali toscane a rischio di estinzione. La regione toscana verifica che abbiano le caratteristiche necessarie per poterlo fare, quindi la necessaria capacità professionale, il regolare possesso del terreno. E una volta verificato questo, individua la risorsa genetica, la varietà locale che ricade nel suo territorio di dove risiede l'azienda, e chiede a questi agricoltori se sono interessati a conservarla. Una volta partito la convenzione, perché questo rapporto viene diciamo sottoscritto in maniera formale con la regione toscana, i coltivatori custodi si impegnano nei confronti della regione toscana a conservare queste varietà in maniera corretta, quindi priva da inquinamenti, che non si perdano, che non si estinguano, e nel momento in cui dovesse verificarsi delle difficoltà deve comunicare velocemente alla regione toscana questa cosa, in modo tale che possa la regione intervenire portando la risorsa genetica da un'altra parte o cercando altri agricoltori che possano sostituirlo. Questa è la figura del coltivatore custode, che non ha soltanto l'impegno di conservare la varietà locale a rischio di estinzione, ma anche l'impegno di farla conoscere, di divulgarla e di riportarla sul territorio d'origine dove questa si trova. Quindi si impegna anche a consegnare una piccolissima quantità di materiale di moltiplicazione a quelli che glielo chiedono e che sono interessati e che sono autorizzati dalla regione toscana ad andarglielo a chiedere, perché hanno interesse a ricoltivare questa varietà partendo da piccolissime quantità che possono essere diffuse all'interno della rete di conservazione e sicurezza, quindi un ambiente controllato dalla regione toscana e che permette di riportare sul territorio di origine della varietà locale questi semi solo allo scopo della conservazione durevole della risorsa. Se poi l'agricoltore custode, il coltivatore custode riesce a valorizzare, a ritrovare così tanto interesse nei confronti di questa varietà fino a riuscire a venderne i prodotti sul mercato, ben venga, perché una varietà locale a rischio di estinzione si salva se viene mangiata, se viene utilizzata, se viene cucinata, altrimenti rimane, continuerà a rimanere a rischio di estinzione. Sì, diventa una specie di museo altrimenti delle varietà che c'erano e basta. Meglio è se queste varietà vengono riscoperte dal consumatore, quindi ritorna un interesse intorno a queste varietà e riportandole sul mercato escono praticamente dall'estinzione, dal rischio di estinzione da sole in questo modo. Queste varietà che attualmente sono conservate e protette, che cosa sono? Cioè pomodori, olivi, che cos'è? Si va dai fruttiferi alle ortive ai cereali. Quindi si abbraccia tutto praticamente, si va dalle mele ai ciliegi, alle pesche, ai cavoli, ai pomodori, alle patate, ai tantissimi fagioli, ai grani. Si sono scoperte diverse varietà di grano fondamentali come patrimonio genetico e hanno un interesse enorme per un eventuale sviluppo. Sono 116 i coltivatori custodi in Toscana e il loro scopo è appunto la conservazione. Ma se la conservazione si trasforma in produzione e poi vendita, meglio per tutti, no? È chiaro che non tutti i custodi coltivano varietà interessanti per i consumatori di oggi e magari nemmeno tutti i coltivatori custodi intendono trasformare questa loro attività in una produzione per il consumo. Qualcuno però è riuscito a passare dalla custodia alla produzione e in alcuni casi con grande successo, anche se con molta fatica e con ancora molta strada da fare. Il giovane Riccardo Borghini è il presidente del consorzio della patata rossa di Cetica. La storia inizia praticamente 10 anni fa, precisi, quando da un gruppo molto esiguo di coltivatori nella nostra zona, Cetica, cioè nel Casentino in provincia d'Arezzo, era rimasta in tradizione la coltivazione di questo tubero, però in pochissimi esemplari, proprio nell'ordine di qualche chilo, che però erano molto piccole, producevano pochissimo, piante un po' sofferenti, malate, però ecco, diciamo, la curiosità era riuscire a capire che cosa fosse veramente questa patata che comunque di famiglia in famiglia veniva ancora tramandata e coltivata. Quindi c'è stato l'interesse da parte della Proloco del paese di Cetica insieme alla provincia d'Arezzo e dal punto di vista scientifico l'Università di Agraria di Firenze. C'è stato tutto un lavoro di recupero che praticamente è iniziato appunto nel 2001-2002 fino a completarsi il recupero intorno al 2004 con un primo lotto di qualche quintale di patate rosse risanate, cioè praticamente dalle vecchie patate piccoline malate presenti quando fu stata riscoperta si è risanato, cioè tolte le virosi che praticamente causavano questa degenerazione del tubero e riportato in sanità grazie all'università e quindi si è potuto riportare in produzione un primo lotto di tubero seme sano. Da lì poi nel 2005 è nato il vero e proprio consorzio, perché chiaramente c'è stata la spinta di voler creare un'associazione che non fosse solo aver salvato la patata, che già era un gran risultato, ma creare anche un qualcosa che potesse commercializzarlo e dare allo stesso tempo anche un valore al territorio. Quindi è nato nel 2005 il consorzio della patata rossa di Cetica e da allora, che attualmente fanno parte circa 14 soci, e sviluppa appunto la coltivazione di questo tubero nella zona di Cetica e comunque nella fascia del Prato Magno casentinese in montagna sopra i 500 metri di altitudine. In questi anni chiaramente il tubero, cioè la patata, insomma, si è diffusa tantissimo a livello locale sia come prodotto ma anche come conoscenza. Infatti ormai non solo locale, no, perché mi pare che ormai vi venga richiesta un po' dappertutto. Infatti, no, mi volevo correggere, infatti locale inizialmente, ma ormai diciamo nazionale, infatti. Purtroppo però la commercializzazione spesso è soltanto locale, perché comunque le quantità ancora sono sempre abbastanza ridotte, quindi nonostante la richiesta sia molto elevata non riusciamo a soddisfare per tutte le richieste che ci sono, ecco. Questa manifestazione sicuramente è stata molto importante partecipare, perché è la prima a cui partecipiamo come coltivatori custodi, perché il consorzio dal 2008 è entrato anche nella rete dei coltivatori custodi della regione Toscana, che praticamente ha lo scopo di tutelare e conservare varietà genetiche locali a rischio di estinzione, tra cui ovviamente la nostra patata. E quindi da allora, oltre a affiancare alla nostra coltivazione classica di tubero che serve sia per la produzione che per mantenere il seme, c'è questa piccola quantità di patate che noi conferiamo al germoplasma della Toscana per la conservazione in luogo. Questa è stata una manifestazione importante per far conoscere anche al pubblico il lavoro che svolgiamo. Certo, di questo vostro lavoro. E purtroppo le quantità sono ancora esigue, dipende da che cosa? Dal numero dei coltivatori? Come si dice sempre in agricoltura, si fanno i progetti e poi è difficile avere un risultato preciso, perché l'agricoltura, come ben si sa, è soggetta a tante variabili ambientali, eccetera. Ci sono certamente fattori ambientali legati al clima, alle stagioni che sicuramente sono più difficili anche nella coltivazione, ma sicuramente anche un fatto che la nostra patata viene coltivata esclusivamente in montagna, in terreni molto piccoli, in appezzamenti spesso terrazzati, usando metodologie tradizionali con poca meccanizzazione, in un territorio comunque difficile, perché la montagna sappiamo ha dei problemi, dalla protezione dagli animali selvatici alle problemi di raccolta eccetera, chiaramente non permettano di poter fare una patata come chiaramente si può fare in pianura a livello industriale, ecco. Quindi ci sono prospettive buone di crescita, chiaramente se l'impegno dei produttori aumenterà, ma chiaramente non parleremo mai di produzioni a livello di quelle di pianura. L'azienda agricola Paola Panichi di Massa Marittima invece ha in custodia dal 2007 diversi cultivar tipici toscani: il cece rugoso della Maremma, l'aglio rosso maremmano e anche un olivo chiamato Lazzaro Pratigiano, che produce delle olive con cui si fa un olio che l'azienda è l'unica a produrre, imbottigliare e vendere. E di questo è molto fiero Marino Bernardini, che è il marito di Paola Panichi. Di fatto poi le cultivar di cui parliamo spesso, e le tante cultivar registrate e conservate da coltivatori custodi, sono nicchie di mercato, se non addirittura esemplari unici che non sono disponibili per la commercializzazione. Vedasi le tante varietà di fruttiferi, le tante varietà di fagioli o di piuttosto che altri sementi orticole, in sostanza. Mentre fortunatamente con il Lazzaro Pratigiano abbiamo, non solo siamo riusciti a certificarlo chiaramente come varietà tipica del nostro territorio, diversa da tutti gli altri quindi già registrati, perché il germoplasma praticamente è completamente diverso. Il germoplasma è il DNA, è il nostro DNA, è il DNA umano per le piante in sostanza, e quindi registrarlo come varietà tipica del nostro territorio, diversa da tutte le altre già registrate. Non solo, siamo serviti come, abbiamo dato la nostra disponibilità al CNR, all'Istituto Santa Paolina di Follonica, per la produzione di talee e quindi per la riproduzione di queste piante, e noi siamo riusciti a praticamente impiantare un oliveto sperimentale in collaborazione con la Comunità Montana di Massa Marittima, appunto il CNR di Follonica, che ci ha dato la possibilità di costruire di impiantare un oliveto specializzato 7x7 di 2 ettari, quindi con 250 piante, che chiaramente unite alle 80-90 piante che già avevamo secolari nell'azienda ci dà la possibilità di arrivare alla commercializzazione in sostanza. E posso dire, spendendo un'altra ulteriore parola, che alla seconda annata di produzione certificata, che è l'annata 2011, sia la prima 2010 che la 2011 ci ha portato nell'unica guida certificata a livello nazionale, che è quella di Slow Food per gli oli extravergini d'oliva, con un riconoscimento magnanimo, perché effettivamente alla prima presentazione su 3 olive, che è il massimo di riconoscimento, ne abbiamo ottenute 2. Quest'anno la classificazione non è più con le olive, è solo una citazione, però siamo in guida anche quest'anno, e questo ci rende veramente orgogliosi del lavoro che facciamo, fatto bene in azienda, del frantoio che abbiamo scelto per frangere, perché sicuramente la pulizia all'interno del frantoio è determinante, e poi della conservazione dell'olio in cantina, che è altrettanto determinante, perché sicuramente l'olio risente delle temperature, dell'esposizione alla luce, della pulizia, per non chiamarla sporcizia, perché questa è un olio non piccante, delicato, si presta benissimo ad essere utilizzato su cotture al vapore molto delicate, tipo il pesce per esempio o le verdure, e la particolarità è proprio il fatto che il suo retrogusto, che lascia in bocca ma non lo si sente, non è aggressivo quando entra praticamente nel palato, ma è il retrogusto che lascia, è un amaro dolce della mandorla amara misto con il cardo, con il carciofo, con l'amaro del cardo. Quindi per voi è stata anche un'opportunità di chiaro, nuova. Chiaro, ecco. chiaro, anzi un'opportunità che ha fatto crescere l'azienda, conoscerla e apprezzarla, perché effettivamente ci ha dato questa grande possibilità. Ora, logicamente, oltre a farne la nicchia per la produzione del monovaretale, poi chiaramente qualche pianta viene raccolta insieme alle altre, per cui nel nostro blend c'è la maggior parte di moraiolo, ma c'è il lecino, c'è il lazzaro, c'è il pendagliolo. Quest'anno purtroppo il pendagliolo ha subito un danno gravissimo dal gelo di febbraio, che è sceso a -12, -13 con delle correnti a 80-90 km orari, che ha veramente danneggiato totalmente la pianta. Siamo dovuti intervenire con tagli alla base, quindi purtroppo lì per 10 anni ci sarà da pendagliolo. Le altre sono più resistenti. Ma sì. Come mai, pur essendo più resistenti, erano state abbandonate? No, non erano scomparse, assolutamente. Oh, diciamo, sì. Il Lazzaro Pratigiano non è altro che un razzo, perché nella nostra Toscana di razzi o lazzeri registrati ce ne sono tantissimi. Chiaramente il nostro ha un portamento diverso dal punto di vista surgente della pianta, quindi è meno pendulo rispetto agli altri razzi. Ha un'oliva diversa. E poi l'invaiatura è completamente diversa rispetto agli altri raggi. L'invaiatura vuol dire a livello di maturazione, nella seconda quindicina di ottobre, la prima quindicina di novembre, l'oliva si presenta paonazza, e cioè praticamente c'è una parte dell'oliva che rimane verde, una parte che si schiarisce sul bianco e una parte che si porta sul violaceo. E lei mi diceva, perché prima non siamo arrivati a questo? Nessuno ci ha pensato. Perché fortunatamente nella nostra zona vuole un po' la maturazione dei tempi. Sicuramente le piccole aziende come la nostra non possono competere con quello che è il mercato della globalizzazione se non diversificandosi con prodotti di nicchia che possono far valere la loro qualità. L'altro pianeta. Come dicevamo, anche in questa seconda parte continuiamo a parlare di coltivatori custodi, coltivatori che in questo caso con la regione toscana si impegnano a conservare le varietà locali in disuso e magari a diffonderle e commercializzarle. All'Expo Rurale, di cui parlavamo prima, nella prima parte del programma, per la diffusione della conoscenza di queste varietà era stato anche allestito dalla provincia di Massa un bel padiglione dedicato ai coltivatori custodi, dove cuffie in testa si veniva guidati all'assaggio dei prodotti. Titolo della narrazione, molto evocativo, «Dialogo tra un coltivatore custode e Michelangelo». Ritroviamo quindi Rita Turchi della Regione Toscana per parlare di questa iniziativa che tra l'altro sarà riproposta in altre occasioni, quindi magari avrete anche occasione di ascoltare questo dialogo tra un coltivatore custode e Michelangelo. Questa è stata una bellissima idea della provincia di Massa che ha con il loro estro artistico hanno creato questa degustazione guidata di alcuni prodotti custoditi dai coltivatori custodi, che sono il cece rugoso della Maremma, sono un olio di Lazzaro Pratigiana, un olio monovarietale addirittura, e poi abbiamo il fagiolo rosso di Lucca e abbiamo anche il miele il primo miele IGP della Toscana, della Lunigiana, e c'è un racconto guidato che si sente in cuffia. Diciamo, chi è interessato si siede davanti a un piattino dove ci sono tutti questi prodotti già pronti per la degustazione, si mette le cuffie e segue questo racconto affascinante che gli porta a degustare questi prodotti. E poi la cosa fantastica è che spesso si alzano e vanno dai coltivatori custodi che sono dall'altro lato dello stand ad acquistarli. Nella prima parte, e fino qui, abbiamo detto di storie di successo, di coltivatori custodi che sono riusciti a riportare sul mercato le varietà che custodiscono e quindi poi a trarne anche un guadagno. Ma non può essere così per tutti, è abbastanza evidente. Portarla qua, la zucca, ma cosa ci guadagna? Ecco, queste sono parole di un coltivatore custode entrate per caso nella registrazione delle interviste nel corso dell'Expo Rurale. Che ci guadagno io a portarla qua, la zucca, si domanda il coltivatore. Ed è una domanda più che sensata. La zucca in questione un tempo si usava per pescare, ma ora è giusto una zucca decorativa. Non è che ci si possa fare del grande business, quindi. E oltretutto coltivarla richiede pazienza e competenza. Ad esempio fiorisce di notte questa zucca e qualche volta, racconta il coltivatore, è stato necessario impollinarla a mano. Quindi anche a vendere qualche zucca decorata, il coltivatore non rientrerà certo del tempo e delle spese fatte per portare i suoi prodotti fino a una qualsiasi mostra, qui era l'Expo Rurale, ma anche in qualunque altra occasione. La regione in qualche modo viene incontro a questo problema, e se sì, come? L'80% dei nostri coltivatori custodi sono coloro che da sempre hanno conservato queste varietà e hanno lavorato, si sono impegnati moltissimo anche nei confronti della Regione Toscana per ottenere il riconoscimento e per cercare di salvaguardare dall'estinzione queste varietà. Quindi più che il riconoscimento formale della Regione Toscana, che poi si formalizza anche in una specie di piccolissimo contributo che la Regione dà per un aiuto in contributo sul PSR per fare la loro attività. PSR significa? Sul piano di sviluppo rurale, che è un sistema di finanziamento per l'agricoltura nei confronti di questi agricoltori, che però è assolutamente simbolico, quindi siamo assolutamente sicuri che loro non lo possono fare solo per il contributo del PSR. Lo fanno più per passione, e quindi loro hanno voglia di far vedere i loro prodotti, hanno voglia di esporli, hanno voglia di valorizzarli, di farli conoscere. E tramite questo loro interesse, questa loro passione, è stato possibile qui fare un'esposizione. Ci sono questi sugli scaffali ci sono esposti più di 45 prodotti e ogni prodotto è un coltivatore custode. E ce ne sono anche altri che non hanno potuto partecipare, in tutto in Toscana sono 116, gli altri non hanno potuto partecipare perché purtroppo spesso quest'anno il raccolto è stato decisamente scarso per tante varietà e quindi non hanno potuto portare i loro prodotti in questo momento qui all'Expo Rurale. Però questi 45 prodotti che sono qui, questi 41-45 prodotti che sono qui, sono praticamente un gioiello, sono un esempio di quello che loro conservano con gran cura durante tutto l'anno. Quindi la risposta in realtà è sì e no, c'è un piccolo contributo regionale, ma non è certo quello che può spingere un coltivatore a impegnarsi nella custodia di una varietà rara. Chiudiamo questa pagina, per il momento almeno, dedicata ai coltivatori custodi toscani, ma non sono solo quelli toscani, i coltivatori custodi in Italia sono tantissimi e stanno, grazie al cielo, anche in altre regioni. E a questo punto facciamo spazio proprio a una esperienza che non è toscana e che è rivolta dall'Italia al mondo. Ce ne parla Marco Carminati in questa puntata speciale di Articolo 9 che è dedicata alla conservazione del patrimonio vegetale del nostro paese, ma non solo. Sentiamo. Buongiorno da Marco Carminati. Le bellissime valli del Trentino offrono tante cose, tra le quali un'agricoltura particolare, un'agricoltura dove domina l'elemento della frutta in particolare. E vogliamo proprio entrare in questo argomento insieme a Gabriele Cagliari, che è il presidente della Coldiretti del Trentino. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Ecco, ma lei però ci tiene molto a intervenire qui proprio come operatore, imprenditore agricolo, perché uno dei suoi pallini, chiamiamoli così, è proprio quello di recuperare le specie antiche. Ecco, noi mangiamo della frutta e della verdura spesso insipida e incolore e non sappiamo che esiste dietro un patrimonio storico straordinario. Lei è andato a cercare questo patrimonio storico. Allora spieghiamo subito che cosa sono innanzitutto le specie antiche, che cosa si indica con specie antiche. Sì, come ben diceva lei, questa è una passione che mi deriva dalla mia attività e dall'amore che provo per la mia terra, quindi per cercare di tutelare quelle che sono le particolarità che essa offre. Quindi da questa passione mi è scaturita la ricerca quasi spasmodica per certi versi di riuscire a salvare quantomeno se non la pianta, ma almeno il patrimonio che ne derivava di piante antiche di melo che per il tempo o per altre vicende dovevano essere in qualche maniera, rimosse o abbattute o comunque venivano a morire per l'età. Questa è una passione che mi ha portato a censire nella mia valle di Non, ecco, valle per eccellenza delle mele, certo. 50 ed oltre, di 50 sono riuscito praticamente anche a ritrovare il nome e la ricerca storica mi ha condotto poi a dare anche, una carta d'identità a queste varietà, di alcune altre ancora no. Oltre quindi 50 varietà ormai scomparse, dalla scena commerciale, dalla quotidianità. Ecco, quindi lei è andato come uno storico alla ricerca del passato, è andato a una ricognizione sul territorio, ha trovato queste piante antiche, le ha studiate, le ha catalogate e adesso cerca di farle vivere, se non ho capito male. Le faccio rivivere appunto andando, e quindi qua mi viene bene quella che è la mia attività, andando a moltiplicarle, quindi a rinnovarle, quindi facendo delle piante nuove tramite la pratica dell'innesto. Che successo hanno? Cioè queste mele antiche, chiamiamole così, piacciono, che sapore hanno, che cosa si differenziano per esempio dalle tradizionali mele che mangiamo tutti i giorni? Vede, nel tempo gli agricoltori, nei millenni gli agricoltori hanno selezionato le varietà di frutta su due caratteristiche, la bontà e la serbevolezza. Sì. La bontà quasi mai corrisponde con la serbevolezza, queste due qualità non sempre si trovano all'interno di un frutto. Poi tutti i metodi ormai moderni di conservazione della frutta hanno fatto sì che la conservazione servisse a poco, quindi la caratteristica di una frutta di conservarsi da sola. La bontà invece è una cosa cosa importante, però tante volte questa frutta ha una, come posso dire, io dico una finestra, quindi un periodo per capirne la bontà, per gustarne la bontà, prima che questa frutta vada, come posso dire, indietro dal punto di vista della bontà, molto stretta. Quindi sono varietà che non hanno più questo tipo di, non soddisfano più questo tipo di logica che viene soddisfatta in altro modo, sono delle varietà veramente buone. Sì. Io credo che vadano preservate, ma ritengo per la storia, per la cultura eccetera, ma soprattutto perché rappresentano anche quella che è la biodiversità, che va comunque mantenuta. E io le posso anche dire che facendo valutare, per così dire, uso questo termine un pochino forte, da alcuni chef di mia conoscenza anche di rango, viene fuori che da alcune di queste mele se ne può derivare un qualche cosa che in cucina magari le altre mele non riescono a soddisfare. Ecco, e questo tipo di produzione, diciamo, che destinazione ha? Cioè come raggiunge il consumatore? Guardi, raggiunge il consumatore per quella che può essere, come posso dire, la filiera cortissima di un agricoltore che poi incrocia o al mercato, oppure perché i clienti, i cittadini arrivano all'azienda sua. In questo modo difficilmente si riesce, come posso dire, a pensare di reintrodurre su larga scala nella grande distribuzione questo tipo di frutta. Certo, quindi un prodotto di nicchia che però coltivato, come lei ci ha fatto intendere, con questo amore, recupero storico eccetera eccetera, naturalmente immagino, ma sono quasi sicuro di quello che sto dicendo, contribuisce alla bellezza del paesaggio. Certo. Senta, se io venissi da lei, che mela mi consiglia? Hanno qualche nome esotico, qualche nome antico le sue mele? Come le dicevo, oltre 50, ne ho censite, sì, catalogate, andando anche a ricerche approfondite su dipinti o quantomeno su veramente dei trattati molto molto molto vecchi. Ci sono dei nomi che sono, come posso dire, bellissimi. Io, lei pensi soltanto al nome Bella di Bosco. Ah, ecco, allora io... Oppure lei pensi, sì, a Renetta Ananas. Oh, allora... Lei pensi a Limoncino. Beh. Oppure lei pensi, che questa magari è brutto come nome, ma è la migliore in assoluto, sì, Ruggine. Va bene. Allora, guardi, chiudiamo su questi nomi meravigliosi che, sì, ricordano quanto il nostro paese sia ricco di storia. Certo. Anche nel mondo dell'agricoltura. Io la ringrazio molto, dottor Cagliari, grazie. Grazie a voi, ecco, e a disposizione per approfondimenti su, ecco, questo tema. Ma abbiamo avuto una finestra bellissima su questo mondo che è l'agricoltura, dal punto di vista storico, con la ricerca delle specie antiche. Grazie e buona giornata a tutti. È tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Un ringraziamento doveroso a Laura Faggin in redazione. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.